Marie! No, bisogna! Buonasera, arrivi tu sei! Arrivito! Cos'è hai detto? No, arrugito! Ehi, da un grillo, voglia! Adesso ha messo un rabbarù, un soffietto, mare, cazzo! Aia, aia, mare, andiamo! Influenza del bifato, no? Un macello, so, un macello! È più il dolore della palla che non mi fa di dormire! Perché c'è influenza, mi pare che sia un po' caldo brutta! Cosa ci voleva adesso? Vabbè. Succedo. Grazie, cosa vuoi fare? Speriamo che faccia. Già passa, piano piano già passa. Piano piano già passa. Vabbè, dai tu, hai ragione. Stai in caldo e basta. Infatti, devi stare in caldo e boh. Quella cosa del portico. Cambia abito così. Lì c'è freddo, sembra così, ma c'è la corrente. Sembra un frigorifero, cazzo. Cazzo, ma vento è freddo, sbarbocciare in occhio. Capito? È un macello, cazzo. Ma non mi ha beccato. Ma beccato sotto il portone, che c'era molto freddo, e siccome il vento l'aveva buttato la plafoniera l'aveva buttato, ma io sono salito sulla scala, è passato fino di qua di sotto, e ho detto, me la piace questo faradino lì. Ma c'era freddo, salito lui, l'ha piazzato, mi ha beccato lì. Invece tu dovevi stare al caldo, magari dentro il magazzino, aspettare che lui l'avesse piazzato e così, ma non avevi pigliato freddo. Ha detto che si muore l'uliccio, così che era in tocca freddo e so cos'è piccaggio. vabbè, vuol dire, piano piano già passa. Mio è la bala che mi dura, capito? Lo godo e tutta la pala, capito? Mi fa male. Sì, non posso prendere un peso che mi fa di più male, capito? Mi stava passando, ma da stamattina ho visto che ha iniziato, torno, adesso sono messo una di quelle carte, come cavolo si chiama, a vedere se mi passa. Se stare al caldo, per rimanere un po' di giorni al caldo, vedrai che da poi già passa, piano piano, meglio rimanere al caldo. Ma come fai il caldo? C'è da buttarci la bobezza, c'è da portare la pelle, c'è da portare l'acqua. Grazie a mio figlio, magari l'acqua me la porta su lui. No, non sempre c'è, capito? Allora scendo io e come fare a rimanere caldo? Non è possibile, dai. Vabbè, ti copri bene, pari di da pivesi, a calda, gabba peli. Scendi e te lo sali piano piano, senza brezza, e te lo porti su un sacchetto e a buglia. No, è un sacchetto, non ce la faccio, ma mi riempo la metà, no, mi riempo un secchio, perché io non consumo la metà di un sacco ogni sera, capito? Così un sacco, così che me ne salgo un secchio piano piano con l'altra mano e già me la porto su. Certo, magari sulla destra non ci riesco più a prendere, fa più male, come la tira del peso mi fa più male. Allora, finché non passa completamente devo fare questo lavoro, lavora sulla sinistra e basta, capito? Ho capito. Vabbè, va benissimo, va. Piano piano te lo porti su un secchio, già tanto già è leggero un secchio, non è che sia bisanti. Quindi ti copri bene, basta, te lo porti su. Infatti, mi Luca, c'è affacciato in PMR. Chiamalo, che siamo qua. Luca Dal Monte. Eia. Attenzione, signor Bacchisio. Attenzione, signor Bacchisio. Signor Bacchisio. Attenzione, signor Bacchisio. Attenzione, signor Bacchisio. Signor Bacchisio, attenzione. Attenzione, Bacchisio. Attenzione, Bacchisio. Attenzione, Bacchisio. Attenzione, Bacchisio. Mette allora il zaffarato, tu. Sicuramente. Se non si acconsegna anche il microfono e non vuoi entrare. Ma il microfono costa anche poco, mi so. Certo, non è che... oppure la GBC, però mi sembra che aveva preso una volta la capsula dalla GBC, sì, non capito male l'altra volta, stavo dicendo così, ma bisogna trovare la capsula che non sia a meno di 600 ohm, capito? Infatti, ma a me pare che non hanno però, a chiedere la pigliata, la savusa, la fusare, la dici che non andano bene. Ma gli accessori vedi, sai, pigli che cioè, costava poco, so. Gliela cerchi, gliela fai arrivare dopo, ti fai dare i soldi. Dice che sei compagnese, lo difendi. Lo difendi e non riesci a ciapparli. Tutte da bassa frequenza sono.